快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天十点，22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场，我是你的朋友古月。今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费多拉》，由莫纳科费比沃、高比卡布奇里等演唱，意大利蒙特卡罗歌剧院合唱团乐团演出。 Oh! Circolo! Con eccellenza! del conte. Ra ra ra. una domanda sola. Eccellenza, il signore che della polizia l'assassino come non cadde ancora in nostra mano. Il conte non proferiva un nome, neppure il nome mio. Avea qualche nemico lui, giusto c'era. E chi? Vuoi interrogare i servi nell'altra stanza? No, restate qui. Scrivete. Slitta. Parla, parla, parla. Egli disse, andiamo al tiro. Andammo, attesi un quarto d'ora. Subitamente nel gran silenzio sono e spari. Ascolto. Nulla. Più nulla, tranne lunghi latrati. Oh mio stupore! Forse innato spinto cancello, corre a sindacco, la bizzarra non s'è più. E poi, quel buon correndo, avrea lasciato sulla neve stille di sangue. Come periglio, prego mio volte, salvo mio la piegosa madre. Sia dunque, signore, le macchie vermiglie guidano un padiglione solitario. Saliamo, lordo di sangue giace il conte. Ave a pensarmi incognito, a terra stava.

grandi e le ombre che si inseguono dall'una all'altra stanza lo cercano le ombre si sono riunite l'han preso signora la rivedo morto uccido Ed ecco la ordini per la Russia. Partite. A mezzanotte. Il mio domani. Noi ci vedremo allora. Addio, addio. Risponde, sì, schiacciante. Si fanno quattro soldi, veramente è un po' un altro giro. Il ballo è il cognac del naro. Principessa, un dispaccio ufficiale vi consiglio di sospendere la festa. Una tempata. Quel male cuore si parò. Stasera un uomo sospetto, giunto appena di Russia, gli recava una lettera del fratel Valeriano. Il fratello anche lui! Null'altro! Nulla! Oh, la prova suprema! La confessione sua! Confessa il suo delitto! Confessa! Finalmente! Egli sta per tornare! Voi scendete in giardino! Appena pronti un segno! Io lo concederò! E poscia! Fate il vostro mestiere! Non credo! Abbiamo un bavaglio! Alla voce della senna mi attende la nave di Savenna e quello suono russo! Obbedirò, signora, o vivo o morto! Questa è l'ambasciata! Sia spedita all'istante a Pietroburgo! Forza il generale Yarishkin! Sarà fatto, eccellenza. Silenzio! È lui! È lui! Andate! Mi mando un biglietto, recobra di mio. io salgo e gli uscito, il servo mi lascia un istante, io porro al tiretto e trovo. E dice, ti attendo stasera alle 9. Thank you. santo mio del thank you. attendo alcune lettere dirette a mia Parigi. Loris, ritorno presto. Subito, arrivederci. Molto Di mio mio fratello al cerco. No, di Borov. Hai la grazia! La tua grazia! Figlia mia! Però fieri a Parigi oggi stesso qui sarà forse giunto perché smemorato mi scordavo delle lettere e ti darò precedente questa lettera in dispaccio. Confessione tua stessa insieme al nome dei complici, i miei complici. Chi sono? Valeriano, mio fratello, lui o quale infamia? Quella lettera è scritta da una rossa dimorante a Parigi, segnò col nome di battesimo, ma la scoprirevo. Dire che non la lettera, conoscerò la mia nemica al fin. Iariskin, resto comandò di tuo fratello, Valeriano restato. La fortezza, il fossato, nella notte affogata, mia madre, madre mia. Morti per me, morti innocenti. Quella donna, la madre Castiglia che mi segue sempre ovunque, ma la brema colei partia. Perché Fedora da me ti scosti, o non lasciarmi. Thank you. che le avevan fatto mia madre e mia fratella. Forse conferì l'anche, forse eressi prega nella sua cieca. Thank you. 这里是歌舞剧场，今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费朵拉》，由莫纳科·费比沃、高比·卡夫契利等演唱，意大利蒙特卡罗歌剧院合唱团乐团演出。感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 come? Se tu mentissi! I mentiti ancora! Ti vedo la certezza! Lui stesso! Lo dimero! Ecco la prova! Leggi! Anima mia! La sua scrittura! Yeah.